Giovedì 1 giugno inizia Tracce di Cinema. Come va, Fede? Stai sollevata? È troppo alto il microfono. È troppo alto il microfono, però lo abbasseremo. Cade tutto. E bello il film di oggi, Fede. Quanto mi è piaciuto! Bravo! Ti ho dato una bella dritta. Mamma mia, mi è piaciuto proprio tanto. E proprio tantissimo. Colonna sonora fino all'ultimo ti tiene. Ma sì, proprio. Sai, quei prodotti perfetti. Proprio confezionati ad hoc, solido, sì, perfetto, perfetto. Bello, bello. Anche se ho letto un sacco di critiche negative che lo riguardano, ma io l'ho trovato fichissimo. Bravissimi gli attori, sì. Ben scritto. Ce l'ha tutte. Sì, ben girato. Beh, insomma, stiamo parlando di Gold, la grande truffa, regia di Stephen Kagan, che ricordiamo è lo sceneggiatore di Traffic. Ed è un film tuttora nelle sale. Sì, ha vinto anche un Oscar per questa sceneggiatura e poi ha curato anche la regia di Siriana, che era anche un bellissimo film. Sì, sì, sì, sì. Beh, questo Gold è un prodotto perfetto, è proprio la classica americanata, però proprio come solo gli americani sanno fare, no? Una storia di grande amicizia, tutta maschile, narrata attraverso due interpreti grandissimi. Vabbè, Matthew McConaughey è veramente straordinario, completamente deformato, affiancato dalla interpretazione più misurata dell'affascinantissimo venezuelano Edgar Ramirez, che interpreta il personaggio di Michael Acosta. Ce lo ricordiamo perché insomma ha fatto il terrorista Carlos in una serie televisiva che aveva lo stesso, insomma, omonima. Straordinariamente bravi entrambi, Federico, sono affiancati secondo me da una serie di attori che pure se interpretano un grande cast. Se interpretano ruoli marginali sono perfetti e bucano ognuno di loro lo schermo. Parlo per esempio, non so, dell'agente dell'FBI Toby Kebbell, che è perfetto, così come è perfettamente odioso Corey Stoll, no? Che interpreta lo squalo, il broker affamato, che infatti si chiama pure Brian Wolf. Perfetta è anche l'unica interprete femminile, ce ne sono due, ma insomma diciamo una e mezza, ecco. Perché è un film veramente molto maschile, e anche insomma nella sua sceneggiatura, no? Che è un po' scurrile, un po' macia, diciamo. La bravissima Bryce Dallas Howard, figlia del regista Ron Howard, che abbiamo visto nel Giardino delle Vergine Suicide di Sofia Coppola, Manderley di Lars von Trier e anche in The Help. Bravissima, bravissima. Peccato per il doppiaggio, secondo me, che era l'unica nota stonata. Un film da vedere in lingua originale, lingua originale. Secondo me. In her hand was a bottle of wine, and in the other a glass. Good God. She poured some of that wine from the bottle into the glass, and she raised it to her lips, and just before she drank it, she said, spill that wine. Hailey Brothers, Spill the Wine, molto latina. Sì, sì, beh, un pezzo del 1970 scritto da Eric Burdon, prima degli Animals, oh, e Eric poi Burdon. Dei War, è stato ispirato dal tastierista Lonnie Jordan, che versò del vino sul mixer combinando un guaio, però diede ispirazione al nostro Eric per scrivere questa grande Eric Burdon questa canzone. E pensa che proprio il tastierista Lonnie Jordan parla di lui dicendo in un'intervista che lui è stato secondo lui il primo rapper bianco della storia. E invece in questo caso questo pezzo è stato suonato, una cover suonata dagli Isley Brothers, e appare nel loro ottavo album del 1971, Giving It Back, composto interamente da covers, cioè c'è un po' di tutto, Neil Young, Jimi Hendrix. E leggevo di loro che insomma sono stati una band che ha avuto successo, ma anche no. Però proprio appunto per questi alti e bassi, a un certo punto, dopo essere stati ingaggiati dalla RCA, l'hanno poi abbandonata perché insomma non si sentivano liberi di fare un po' come volevano, e hanno deciso di aprire una loro casa discografica nel 1964, che si chiamava Teaneck Records. E pensa che nei primi singoli che pubblicarono avevano come chitarrista Jimi Hendrix. E calcola che anche che loro compaiono anche in altri film che abbiamo, di cui abbiamo mandato le musiche. E questo pezzo fa parte di varie colonne sonore, tra cui anche Boogie Nights. La colonna sonora, Fede, a noi ci ha convinto proprio subito, vero? Sì, io appena ho visto, mentre vedevo il film, ho detto questo va a tracce di cinema. Sì, ed è stata curata da un giovanissimo genio, tale Daniel Pemberton, che veramente, insomma, sa quello che fa. sì, mi è piaciuto. Ha firmato la colonna sonora di The Counselor di Ridley Scott, Steve Jobs, e poi per questo film ha ricevuto il Golden Globe per la migliore canzone originale, che è appunto proprio il titolo di Gold, è la traccia, diciamo, la traccia più importante naturalmente di questa colonna sonora. Ha ricevuto, come ti dicevo, il Golden Globe ed è stata la scritta insieme a Iggy Pop, Danger Mouse e il regista. We had a party. Oh, Big Dipper con Ron Klaus, Wrecked This House, sempre dalla colonna sonora di Gold. Sì, sì, sì, questo, quel periodo là, insomma, in cui suonavano i Big Dipper, era il periodo un po' dei grandi miti della musica, dai Nirvana ai Pearl Jam, era quel periodo in cui c'erano solo loro, però accanto a loro c'erano anche delle band che facevano comunque un rock alternativo buono e che, anche se facevano un rock di qualità, restarono un po' offuscati, insomma, da questi grandissimi gruppi. Uno di questi era proprio Big Dipper, che si sono formati alla fine del 1980 con alla guida Volcano Sanz, e che avevano questo sound un po' tra il college rock e delle sonorità post-punk, insomma, leggere e diciamo divertenti come gruppo, perché molti dei loro brani erano così al limite dello scherzo, perché insomma si divertivano a parlare di UFO oppure del mostro di Loch Ness e hanno, o di Abraham Lincoln, ecco, per dirti, cioè passavano proprio da un soggetto all'altro divertendosi e non prendendosi troppo sul serio. Hanno realizzato 4 album prima di scomparire e il Times li ha descritti così: musical lo leggo in inglese, Fede, mi sì, fa fatica a tradurlo, però è facile: musical contortionist, they love to toy with extremes, just opposing ferocious guitar noise with celestial vocal harmonies. I Television con 1880 or so, un gruppo che non mi piace particolarmente, però questo brano è molto interessante. E allora ci chiedevano di non leggere semplicemente le cose in inglese, ma di tradurle anche, giustamente, okay. Perché non tutti definitiva. Io le traduco sempre, oggi ero un po' pigra e quindi l'ho lasciata così, anche perché poi non era una cosa così poi che mi piaceva tanto, però adesso non la ritrovo, Federico. Vabbè, dai, la traduciamo dopo. È anche piuttosto breve, dai, sì. Non abbiamo letto. Mi sembrava facile. Eccola, musicisti dei contorsionisti della musica hanno amato giocare con soggetti estremi, giustapponendo chitarre feroci con una voce celestiale e delle armonie delicate, va bene? Che dici come traduzione? Perfetto. Invece volevo aggiustare anche un altro tiro che ho sbagliato prima. Un ascoltatore ci ha telefonato giustamente per correggermi a proposito della serie televisiva di cui ho accennato, Carlos, bellissima tra l'altro, una serie in onda su, mi pare, Netflix. È la storia appunto di... Ma tu l'hai vista? No, non l'ho vista, però adesso la cercherò di vederla, perché stavo leggendo un pochino adesso su internet. È la storia di Ramirez Sanchez, un grande combattente che ha iniziato la sua storia politica combattendo in Giordania per la causa palestinese, e poi si è spostato in Francia sotto il comando di militanti libanesi, e gli è stato dato il nome di Carlos, insomma un bel personaggio, ecco. Senti, poi continuiamo con la musica, sì, o volevi aggiungere qualcosa sui Television? No, mi pare di no. Notazioni degne di... Sì, fighi Television, mi piacciono un sacco, al contrario di quello che mi dici tu. Perché non ti piacciono? No, non mi hanno mai entusiasmato. Non ce l'hai sul telefono? Non ce l'ho sul telefono, per dire. No, a me piacciono un sacco, invece. E, sono stati amatissimi anche da Brian Eno. E poi da Patti Smith, credo che sia stata anche fidanzata con il con i Television con il frontman Verlaine, e infatti di lui ha detto: il suono della chitarra di Tom Verlaine fa pensare a un urlo di mille uccelli. Molto poetico. Ah, che poesia. Sì. Been trying to meet you. I Pixies mi sono ricreduto, non li avevo inclusi nella mia scelta, tu invece l'hai fatto, questa era Hey. Eh sì, un bel pezzo questo, una ballata classicissima che non c'entra niente con la musica dei Pixies, faceva parte del loro terzo album, bellissimo questo brano, se leggi il testo in inglese. In inglese, lo vogliamo leggere. E se leggi il testo è bellissimo, sono tutti riferimenti biblici, però è una storia d'amore, e la storia di due persone che non possono fare a meno l'una dell'altra, però allo stesso tempo non riescono a stare insieme, si prendono, si lasciano di continuo. E un po' come Adamo ed Eva, che, ma guarda, che proprio, ma guarda, si lasciavano, si riprendevano, andavano con altri e altre che non esistevano. Mi è piaciuto tanto. E non si lasciano, però non riescono a stare insieme, non riescono a stare lontani, e il loro rapporto è qualcosa di concreto, però non si sa bene che cosa lo rende tale, e a un certo punto dice: lo sanno solo loro. Must be a devil between us, ci deve essere il diavolo tra di noi, perché forse è proprio lui che li rende uniti. Bellissimo, bellissimo testo. Invece di questo film, sì, torniamo al film, forse è un film che non passerà alla storia, anzi probabilmente non passerà alla storia, però è proprio, ma secondo me è uno dei migliori della stagione, anche e questo secondo me proprio, lo metto pure tra i primi cinque forse, mi piace anche l'idea che sia proprio un classico, no? È il classico dei classici, usa degli elementi che sono comuni a molto cinema americano di oggi e di ieri, e perché proprio Gold, la grande truffa di Stephen Kagan, è scritto e girato proprio come un classico, e ha come tema principale il classico dei classici, cioè il sogno americano che viene proprio narrato nel modo più canonico possibile, e racconta anche di questa grandissima amicizia, forse anche in modo un po' retorico, però con questa regia molto virile, come dicevo prima, a tal punto che i ruoli femminili non sono veramente esigui, uno è un pochino, e però mi è piaciuto anche perché comunque divide questo film, secondo me è proprio diviso in due parti: da una parte il sogno del protagonista e la sua voglia, insomma, di rivalsa verso la società, e poi l'avidità del mercato americano. La racconta bene questa avidità, sì, racconta bene la corruzione dei piani alti dell'economia, e poi anche la follia qualche volta autodistruttiva dei sognatori. Someone else. is where I'll be, where I'll be. This must be the place, nella versione Kishibashi. Sì, Kishibashi, classe 1975, è una cantante americano multistrumentista e compositore, e ha fatto questa cover, devo dire molto bella, del singolo che poi fu estratto dall'album Speaking in the Tongues dei Talking Heads, usata in tantissimi film, naturalmente quella che ci ricordiamo più vicina a noi insomma nel tempo è quella dei Talking Heads all'interno del film di del buon Paolo Sorrentino. E invece di questo film vorrei raccontarvi un po' la sinossi, dai, per convincervi ad andarla a vedere. È la storia assurda, quella di Kelly Wells, uomo di affari sull'astrico. Intanto è una storia vera. Sì, è una storia vera e ispirata da un, insomma, da un fatto avvenuto nel 1980, e poi magari dopo ne approfondiamo un po'. Un uomo d'affari sull'astrico che insieme all'amico e socio Mike Acosta prova a giocarsi la carta della vita, a scovare la più grande miniera d'oro del mondo nelle giungle dell'Indonesia. Quando tutto sembra perduto, i due riescono a fare cento, trovano l'oro, diventano miliardari, ma poi chiaramente si dovranno guardare dalle insidie del mercato finanziario e concorrenza e tradimenti fanno parte di questo del secondo tempo di questo film, che a dispetto dei critici che ne hanno parlato male, a me è piaciuto tantissimo, proprio perché è una riflessione un po' delirante sull'American Dream, no? Cioè la gloria, c'è, cioè la caduta, poi c'è, cioè comunque tutta questa avventura in Indonesia. A me è piaciuto, sì, proprio, sì, tanto. È molto avventuroso anche, certo. Like a mask of self-pity. Joy Division Atmosphere. Felice di suonare questa canzone sempre, sì. Una delle canzoni più disarmanti, poetiche, se non una delle più belle e tristi di sempre, è sicuramente una delle più toccanti dei Joy Division, no Fede? Sì. Oh, sto vedendo qui un singolo uscito 2 mesi prima della morte di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio del 1980. Il video venne girato nell'88 da Anton Corgijn, regista che ha pubblicato il film Control sulla vita di Curtis, e anche fotografo di Joshua Tree degli U2. È un filmato quasi mistico, no? Con degli strani uomini incappucciati con una veste bianca e altri nera, e al termine del video portano via un maxi quadro raffigurante il povero Curtis. Si sa quasi tutto, insomma, si sa tutto della biografia dei grandissimi Joy Division. Il loro nome deriva dal racconto intitolato La casa delle bambole, in cui si narrava le vicende di alcune prigioniere che nei campi di sterminio venivano portate in stanze, appunto le Joy Division, e costrette a prostituirsi. Due solo gli album ufficialmente concepiti da questo straordinario gruppo, Unknown Pleasure e Closer, e se poi volete saperne di più potete andarvi a leggere il libro Così lontano, così vicino, scritto dalla moglie di Ian Curtis, Deborah Curtis, e Control, andatevi a vedere Control, il biopic di Corbijn, e poi leggetevi anche il libro del bassista dei Joy Division, Peter Hook, in cui racconta un po' la storia della band. La rimettiamo perché è andata qualcosa da sotto. Sì. L'omonimo brano Gold, Iggy Pop. Eh sì, la traccia principale di questo film. Voce cavernosa. L'iguana e Brian Joseph Barton, meglio conosciuto con il nome di Danger Mouse, classe 1977, musicista, cantautore, produttore discografico statunitense, che ha collaborato con tantissimi artisti, tra cui U2, Red Hot Chili Peppers, Gorillaz, e è stato considerato, Fede, uno dei 75 personaggi più influenti del XXI secolo dalla rivista maschile statunitense Esquire, forse perché è stato nominato per i Grammy nella categoria produttore dell'anno 6 volte, chissà, forse è per questo. Boh. Comunque, insomma, l'ha scritta lui insieme a Iggy Pop e a Stephen Kagan, questo brano proprio per il film, e di questo brano e di questo film Iggy Pop ha dichiarato: questo bellissimo e prevedibile film mi ha parlato di violenza, desiderio, destino, lussuria e inesplicabili colpi di scena del destino. Così ha dichiarato in un'intervista con a Rolling Stone. Gli attori e la storia hanno costruito una trama eccitante che mi ha lasciato esausto e senza fiato, perciò ho provato a cantare tenendo presente questa sensazione, mi sono trovato a comunicare su un nuovo livello stando lì in studio con Stephen King e Danger Mouse a cantare Gold, una canzone del nostro tempo, una canzone, non proprio una canzone, più una l'ho trovato molto in stile Johnny Cash, è molto parlata più che cantata, sì. Però devo dire molto bella, e continuerei con la musica e poi forse con i saluti. Fede, che dici? Decidiamo insieme in diretta, perché c'è un brano dei New Order, Blue Monday, che dura 8 minuti abbondanti. Mi piaceva metterlo a 10 minuti dalla fine. Ce ne sono un altro paio di brani che però a te non convincevano molto, ma anche sono d'accordo, anch'io non ero convintissimo. Ma lo sai perché poi sì, vorrei mettere Blue Monday per intero? Perché tutti quanti poi la suonano nelle radio, nella versione quella breve, radio edit, quella di 3 minuti. Invece questo pezzo, secondo me, cioè, a parte che è stato il 12 pollici più venduto nella storia della musica, e poi perché non la suonava nessuno nella sua versione lunga. Allora, diamo a questo punto, salutiamo tutti quanti e tutte quante. E poi, perché secondo me New Order sono una delle mie band preferite, quindi voglio proprio vogliamo dire qualcosa sui New Order adesso? L'onore che meritano, che senza di loro probabilmente non ci sarebbero stati gli U2, i Pet Shop Boys, i Primal Scream. Pensa che proprio Bono Vox, aprendo un concerto a Manchester, ha detto: devo ringraziare Ian Curtis, Joy Division e i New Order, perché senza di loro non saremmo stati qui. E questo singolo, pubblicato nel 1983 e poi successivamente remixato e ripubblicato nell'88 e nel 95, fu scritto e composto dai membri della band Gillian Gilbert, Peter Hook, Stephen Morris e Bernard Summer, ed è senza ombra di dubbio uno dei pezzi più elettro di sempre, ed è diventata nel corso degli anni 80 uno dei brani più suonati ed apprezzati nelle discoteche di tutto il mondo. La storia del pezzo è stata raccontata tempo fa all'interno di un reportage. La band disse di aver scritto Blue Monday come reazione al fatto che durante i loro concerti i fan non chiedessero mai il bis. Idealmente il pezzo doveva essere un semplice beat elettronico da suonare con un synth dal vivo per far ballare la gente, ma piano piano la canzone riuscì ad evolvere diventando un pezzo vero e proprio. E l'abbiamo già suonata qualche giorno fa all'interno di un'altra colonna sonora, quella della che riguardava la storia dell'azienda, la Factory, ti ricordi? Cioè, sì. Perché proprio un Blue Monday è stata scritta dai New Order, e i proventi che sono arrivati, insomma, per dopo la pubblicazione di questo pezzo erano proprio stati usati da loro per per sostenere proprio questo mitico club, l'Hacienda di Manchester. Allora, prima dei New Order, visto che siamo ai saluti, ci sentiamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta, l'indirizzo di posta elettronica è tracce di cinema@ondarossa.info, e per sottoscrivere per questa radio che ha compiuto gli anni il 24 maggio, i suoi 40 anni, l'indirizzo di posta il conto corrente postale a cui sottoscrivere è il 61804001, oppure lo si può fare in maniera telematica sempre dal sito internet della radio. Sull'home page c'è alla voce sostieni. Non è importante con quanto potete sostenere la radio, purtroppo piuttosto che lo facciate è la cosa più importante di tutte, perché questa radio è libera e indipendente dal 1977, vive senza patroni e senza pubblicità, e grazie alle vostre sottoscrizioni e al vostro aiuto. Un saluto da queste voci a tutti coloro e tutte coloro sono private o privati della loro libertà personale. Dopo di noi c'è Attica Blues, questi sono i New Order con Blue Monday integrale.